9 in punto, la versione di Oscar. Buona giornata, buon martedì 30 agosto, anche oggi dalla centrale elettrica qui a Dro, da Fies in Trentino, per la kermesse che è in corso in questi giorni con politici, economisti, finanzieri, ragazzi, studenti, che si confrontano su qual è la piega che prende questo paese, cosa fare per impegnarsi di più, ciascuno ha diversi punti di vista, e oggi ne parliamo con l'animatore da anni che ha avuto questa idea. Ne abbiamo parlato anche ieri con Ricoletta, il vice segretario del PD. Abbiamo con noi anche l'amministratore delegato tra poco di Vodafone, Bortoluzzo. Con loro insieme un punto su che cosa? Innanzitutto sulla manovra che, come avete visto, come ogni giorno che viene in terra porta la sole e la luce diversa, anche ogni giorno cambia la manovra del governo. E quindi siamo arrivati a riscrivere integralmente. Pare che sia sparita la supertassa sui redditi che tante critiche aveva portato al governo. È comparso un intervento sulle pensioni, per cui chi di voi col riscatto del militare e della laurea pensava di aver maturato i 40 anni per andare in pensione, niente, dovrà aspettare, varrà per quando ci andrete, sì, sul montante, ma intanto rifatevi i conti, perché il governo la notte, sempre che non cambi di nuovo idea, ha deciso che questa cifra non valga. Tutti i nodi Bossi, tutti i nodi Tremonti, tutti, che fine hanno fatto? Ne capite niente? No, speriamo che li capiscano i mercati, ma figuratevi, fino a che c'è in Parlamento cambierà ancora. È la fiera della parola data una volta per tutte con i loro elettori. Questo è il mio giudizio, ma comunque lo sentiremo con i nostri ospiti tra poco. Intanto, linea al giornale radio. 9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon martedì 30 agosto e la serata di ieri, anzi lungo rovente pomeriggio di questo incontro tra i vertici della Lega, Berlusconi e Tremonti, ha portato, dopo un inizio che viene riportato dai quotidiani di oggi come concitato, pare che insomma fossero volate parole grosse prima del pranzo, poi dicono, leggo dalla stampa, che un piatto di rigatoni fumanti li ha messi d'accordo, insomma io eviterei fossi loro, però insomma questa è la ricostruzione, dopodiché lungo pomeriggio per rimettere mano alla manovra. Quindi devo dire che ho perso la scommessa con voi, perché io ieri mattina avevo scommesso che avremmo chiuso la serata con un governo che ci alzava l'aliquota marginale sul persone fisiche, ci alzava l'aliquota standard sull'IVA, metteva una patrimoniale, invece no, dopo lunghe ore di confronto, ieri Berlusconi, la Lega e Tremonti hanno ciascuno di loro in realtà fatto passi indietro rispetto a tutto quello che avevano fatto scrivere sui giornali, per cui ciascuno era fermo su un no invalicabile. Non è andata così. Quindi, in sintesi, lo dico prima di presentare gli ospiti che sono con noi qui alla centrale a Fies, a Dro, dove siamo in questi giorni con la trasmissione qui 9 in punto la mattina e poi con la Zanzara, con Giuseppe Cruciani anche il pomeriggio. Siamo qua per seguire più da vicino questa kermesse che a nostro giudizio è una dei più interessanti occasioni che ogni anno sia aperta per un confronto tra chi ha esperienze, opinioni, professioni diverse, ma è un convegno organizzato, certo, da un personaggio politico, da coloro che gli sono vicini, da Enrico Letta, vice segretario del PD, che è con noi qui in studio. Buongiorno e grazie Enrico Letta. Buongiorno, grazie a voi di essere qua soprattutto. Eh no, perché lo spirito con cui siamo venuti qua è che dopo anni in cui ci venivamo uti singoli, come singoli cittadini, ci siamo detti, ma c'è un altro posto in cui si può così liberamente, da punti di vista diversi, parlare? È chiaro che ce ne sono tanti in cui si può parlare liberamente, ma la caratteristica di questo incontro è quello di unire appunto opinioni, appartenenze, metodi di analisi diversi, con working group il pomeriggio e con plenaria la mattina. Io vi posso dire che non c'è alcuna piaggeria né alcuna affiliazione improvvisa di Radio 24 ovviamente a Enrico Letta, c'è semplicemente il riconoscimento di un impegno, e tanti uomini della politica, della finanza, della banca e dell'impresa vengono qua, tant'è che l'altro ospite che è con noi qui in studio è l'amministratore delegato di Vodafone, che questa volta, devo non sbagliare il cognome visto che io dico sempre Bortoluzzo, invece Bertoluzzo, maledizione a me che sbaglio sempre. Buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie. Però io devo finire prima per i nostri ascoltatori la sintesi mia di quello che è successo ieri. Come capirete sui giornali, se li avete già letti o altrimenti, se non li avete ancora letti, leggeteli. La cosa di fondo è che il cosiddetto contributo di solidarietà che il governo aveva partorito sui redditi superiori ai 90.000 euro con un'aliquota 5% e poi sopra i 150.000 diventava il 10%, e che ha fatto esplodere i giornali vicini al centrodestra, l'opinione pubblica. In tanti gli hanno detto, ma siete matti che alzate ulteriormente l'aliquota, già che è più, tra le più elevate sui redditi personali? Quella roba lì è tramontata, non c'è più, c'è solo per i parlamentari, una specie di tassa sulla vergogna che i parlamentari si danno da soli. Ma poi non c'è l'allineamento dell'aliquota IVA, non c'è la patrimoniale cervellotica di cui avevano parlato i leghisti, per la quale bisognava fare una istruttoria per ogni contribuente, perché bisognava parametrare lo stock patrimoniale di ciascuno alle dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti, incrociarli, verificarne la congruità, a quel punto chiedere al contribuente di giustificare magari la mancata congruità, poi magari applicargli anche un'aliquota di persona. Ecco, infatti non se ne è fatto nulla. Per gli 3,8 miliardi che vengono a mancare nella manovra triennale per via del fatto che manca il contributo di solidarietà, si aggiungono anche 2 miliardi di minori tagli rispetto al previsto alle autonomie, meno di quello che si aspettavano le autonomie avevano capito in questi giorni che gli si levava del tutto i 6 miliardi di tagli. Comunque 3,8 più 2 fa 5,8, quasi 6 miliardi che mancano. Rispetto a questi 6 miliardi che mancano, il governo che cosa mette per l'invarianza dei saldi? Mette un indurimento del regime fiscale sulle cooperative e lo cifra più di 1 miliardo quasi. Le cooperative dicono che in realtà sono poche decine o comunque non molto più di 200 milioni e quindi qui c'è un problema aperto di verifica. E la Lega si deve rimangiare il fatto che aveva detto no, nessun intervento sulla pensione di anzianità, hanno alzato quota 96, no, hanno fatto un'altra furbata, per così dire, cioè hanno scomputato dal numero di anni che serve per fare 40 per avere il trattamento quelli del riscatto della laurea del militare. Quindi cosa vuol dire? Che se avete riscattato laurea militare e quei 4 o 5 anni immaginavate che facessero somma per fare 40? No. Se avete riscattato, ciò che avete pagato non viene meno, perché quando avrete 40 anni però di lavoro, levati i 5 che avete riscattato per andare in pensione, nel montante ci saranno i denari che avete versato. Però lo scherzetto è che dovete aspettare 4 o 5 anni. Io avrei preferito toccare le quote generali piuttosto che questa cosa. Questa cosa vale 1 miliardo e qualcosa solo dal 2014. Risultato, facendo le somme, mancano dei miliardi rispetto ai saldi. Io dico, Il Sole dice, insomma ieri ci siamo fatti i conti, mancano almeno 4 miliardi rispetto ai 6 costituiti dalla somma dei tagli inferiori dati ai comuni e del venir meno del contributo di solidarietà. Il punto politico è che scrivono e riscrivono e la testa gira, la loro ma anche la nostra, fino alla chiusura del testo in Parlamento. Dico a tutti calma e gesso, perché chissà quante riscritture e quanti nuovi no che hanno pronunciato verranno di nuovo negati. Fatto è che si sono dovuti rendere conto che il tradimento rispetto alle loro promesse sulla supertassa sui redditi gli ha creato tutti i danni che gli rimarranno, secondo me, di credibilità, di consenso. E da questo momento in poi non possono che continuare a fare quello che tante volte hanno già fatto, zigzagare, dicendo naturalmente che la loro credibilità è intatta. Io credo l'esatto contrario. La mia opinione è che oramai in materie così rigorose come l'Europa e i mercati, che chiedono impegni seri, parole date una sola volta, misure credibili, strutturali negli anni, non siano molto compatibili con questo piroettare, zigzagare, con questo tango che mi diverte assai poco. Perché i mercati, l'Europa, anche i contribuenti italiani e cittadini, ne deducono che non ci si può fidare fino al punto in cui vanno a dormire, perché almeno quando dormono speriamo che danni non ce ne facciano. Questo è il mio giudizio. Vedete che quindi sto diventando sempre più radicale. Lo ammetto, cari ascoltatori di Radio 24. Mi dispiace, ma preferisco dichiararvelo prima. Ora, vediamo un pochino invece i nostri ospiti. Ovviamente mi tocca cominciare a Enrico Letta una domanda obbligata nel chiedergli che cosa pensa lui di questo nuovo compromesso che ha riscritto la manovra bis. Che ne pensa? Ma la sintesi che faccio è questa. Sintesi politica. Vince Berlusconi col suo obiettivo di rimanere a Palazzo Chigi il più a lungo possibile, di chiudere la legislatura a Palazzo Chigi, perché alla fine ha imposto questo compromesso al ribasso, ha smussato gli angoli per evitare problemi, però sostanzialmente vince questo suo obiettivo, questo suo tentativo. Poi secondo me non ce la farà, ma questo suo tentativo. Sintesi economica: mancano miliardi, mancano soldi a questa manovra e quindi si tratta di capire come le autorità europee, che avevano chiesto ai quali l'Italia aveva dato degli affidamenti, i mercati finanziari e complessivamente i conti pubblici, il giorno stesso, tra l'altro ieri, in cui il Fondo Monetario dice guardate che, e parlava della vecchia versione della manovra, non basterà, dovrete fare qualcos'altro, perché con la crescita che non avete questa manovra così non basta, viene ulteriormente indebolita. Quindi sintesi economica: i conti non tornano, mancano soldi, l'accordo politico è stato fatto a spese della credibilità dei conti pubblici, e questo ci riporta alla storia del nostro paese, che è sempre stata fatta di fatti di questo genere. Terza sintesi, un misto di politica, economia, sociologia, psicanalisi collettiva. Quando c'è l'emergenza e siamo sull'orlo del baratro, si fanno certe cose. Poi appena si allenta il clima di emergenza, da 2 settimane a questa parte, quel clima di emergenza che c'è stato attorno a Ferragosto, subito prima di Ferragosto, si è leggermente allentato, allora subito scattano le compravendite politiche, il compromesso, si allentano le cose, si evita e soprattutto poi non si fanno le scelte di lungo respiro. Quindi le scelte di lungo respiro, appena l'emergenza viene... diciamo c'è un pochino meno di emergenza, si abbandonano a scapito di cosa? Di trovare intese sull'immediato. Allora, la mia analisi su questo terzo punto è la seguente: attenzione, perché già la manovra è stata congegnata tutta sull'obiettivo del assicurare ai mercati europei, all'Unione Europea, che noi lavoriamo al pareggio di bilancio. Lavorare al pareggio di bilancio, non voglio entrare troppo in tecnicalità, ma vuol dire impegnarsi su uno solo dei criteri forti, importanti, sui quali bisogna lavorare. I criteri sui quali bisogna lavorare sono il deficit, cioè quindi il bilancio annuale dello Stato, evitare che sia in perdita, il debito, noi abbiamo uno stock di debito pregresso enorme, e la crescita. Questi sono i criteri sui quali dover lavorare. Allora, questa manovra lavora solo sul primo, sul deficit. Attenzione, perché è chiaro a tutti, i segnali sono arrivati in tutti i modi, ripeto, anche il Fondo Monetario ieri, e in generale sono gli altri due quelli che oggi contano di più. Allora, il deficit è importante, non lo voglio assolutamente sottovalutare, anche per gli altri due, perché con un deficit zero si mette le condizioni per una graduale riduzione nella prospettiva del debito. Aggiungo, con un deficit zero, se tarato sulle riduzioni di spesa, si dimagrisce e quindi si è più snelli per scattare. Quindi la crescita, io sono tra quelli che pensa che un buon dimagrimento qualitativamente... Quando si è obesi si può dimagrire in un modo o nell'altro, si può dimagrire male e uno collassa e muore, oppure si può dimagrire in modo tonico, si è più tonici e quindi si corre meglio. Allora, qui il tema di fondo è attenzione, perché è chiaro a tutti che oggi i mercati guardano al debito più che al deficit. Guardare al debito vuol dire che se l'Italia non si inventa, insieme all'Europa certo, non da soli, nell'arco dei prossime settimane, prossimi mesi, qualche cosa che dia l'idea che noi aggrediamo lo stock di debito, i nostri problemi sui mercati finanziari aumenteranno nelle prossime settimane e non diminuiranno. E crescita, se non c'è una strategia di crescita, e il compromesso di ieri è bandiera bianca su questo, se non c'è una strategia di crescita, tutte queste cose messe insieme vanno poco lontano. A questo fiocchetto finale c'è la beffa dei tagli ai costi della politica. Questo lo dico perché io ho letto i giornali di stamani, ho visto i telegiornali di ieri sera, di stanotte, di stamattina. Lo dico agli ascoltatori, purtroppo c'è anche un livello di informazione nel nostro paese che quando ascoltate e leggete tolte le province e dimezzati i parlamentari, questo è un falso che i giornali e le televisioni oggi scrivono sapendo di mentire, perché chiunque sa che il cuore della scelta fatta ieri è il salvataggio di tutte le province esattamente come sono e il mantenimento dei parlamentari esattamente come sono, perché traslare dalla manovra a un disegno di legge costituzionale che per la Costituzione ha bisogno di essere approvato 4 volte con distanza di 3 mesi da un'approvazione all'altra, con maggioranze dei 2/3, altrimenti si va poi a un referendum. È come dire che non c'è. Punto. È chiaro a tutti che non ci sarà. Sono totalmente d'accordo. E ringrazio l'onorevole Letta perché ha aggiunto questo alla sintesi mia che mancava. Mancava perché le province e i comuni, io la penso così, è una presa per i fondelli. Possono dire quello che vogliono, ma è inevitabile che con questo iter non possa che essere questa la conclusione. Molti ascoltatori dicono: ma che fai Oscar, sei diventato comunista, vai coi catto comunista. Ma guardate ragazzi, non si tratta di questo. Io ho fatto campagna durissima in queste settimane perché la perdita di credibilità di un governo del paese è una perdita di credibilità che mi preoccupa per le conseguenze che ci sono sui mercati. In più ho aggiunto una campagna durissima per la confusione in materia fiscale che il ministro Tremonti e i vertici del governo hanno alimentato con le loro misure e poi con le loro epocali ipotesi che volevano aggiungere alle loro misure. Allora, il centrodestra è in una confusione mentale, questo è il mio giudizio molto forte, non so se ve ne siete resi conto. Magari, se siete così convinti sostenitori da pensare che dirlo a voce alta non sia un servizio al paese, ma sia inventarsi qualcosa, eccetera. Però non mi puoi dire, non mi potete dire da questo punto di vista che Giannino preferiva la patrimoniale. Non è così. Il problema è che l'aumento della aliquota marginale sui redditi delle persone fisiche che si rimangiano è, credo, uno dei più colossali errori di credibilità, innanzitutto, oltre che di merito. E, ripeto, la cosa rilevante, lo dico soprattutto a chi di voi da 17 anni li vota, è che sia venuta in maniera conclamata ed eclatante dalla parte che da 17 anni vi racconta che taglierà le tasse, diminuirà la spesa, diminuirà il perimetro della mano pubblica, tutto ciò che poi regolarmente non avviene. Ma adesso, imbarazzando meno ovviamente Bertoluzzo di Vodafone, che non fa politica, è alla testa di una grande azienda italiana nel TLC, però è un gruppo internazionalizzato e proprio per questo ha, per così dire, la cognizione diretta tra le diverse sorelle del gruppo nei diversi paesi di come i sistemi paesi stiano reagendo diversamente e mettano diversamente in condizione un'azienda come Vodafone di rispondere o meno alla missione nazionale. La missione di un'azienda è ovviamente quella di fare utili, di essere efficiente, di ottimizzare i propri costi rispetto al fatturato, di beccare nuovi clienti, di fare concorrenza ai players del settore. Però c'è anche naturalmente il contributo che poi viene da un settore come questo. Abbiamo fatto tante trasmissioni, le TLC, che cosa può venire con la banda larga, la produttività che riguarda centinaia di migliaia di piccole imprese che senza infrastrutture avanzate di comunicazione in larga banda rimangono escluse dall'applicazione vera, verticale, orizzontale dell'ICT in tutta la loro filiera e organizzazione di gestione dei magazzini come dei clienti e dei nuovi mercati. Ecco, la prima domanda che le faccio è, da cittadino, prima che da manager, poi da manager anche di un'azienda così strutturata, l'impressione di queste settimane su di lei qual è? Ma io credo che ci sia una premessa doverosa. Tutti noi vorremmo vedere, abbiamo voluto vedere più riforme strutturali e più interventi sulla crescita. Sono d'accordissimo con quello che diceva Enrico Letta, che le due cose possono andare assolutamente di pari passo. E credo che questa sia una premessa che unisce tante persone. Detto questo, ormai siamo in tempesta, ci siamo dentro. E quindi credo che, essendoci dentro, sia importante l'efficacia del prossimo passo. Io capisco tutto quello che si diceva prima anche sul tema della credibilità. Se io vedo quello che è uscito dalla serata di ieri, premesso che condivido, potrà cambiare ancora mille volte, è un piccolo passo in una direzione forse più corretta nel mezzo di una tempesta, ribadisco, nel mezzo di una tempesta. Ci sono due sei importantissimi. Il primo sei è che vengono mantenuti gli impegni sul conto totale, sui famosi 45 miliardi, perché questo sì che è un tema di credibilità anche nella tempesta, centrale per il nostro paese, per tutti quanti noi, oltre che per il governo. E il secondo sì è che questi tagli, se vogliamo, questo alleggerimento dello Stato in termini di provincia, in termini di numero di parlamentari, sia un qualche cosa sul quale ci siano degli impegni precisi, quantomeno in termini di azione e di tempi, perché altrimenti vale quello che è appena stato detto, e cioè il tema va in cavalleria. Questo sarebbe molto molto grave. Io credo che i cittadini siano pronti, soprattutto quelli che hanno di più, quelli che guadagnano di più, possono essere pronti, possono anche capire che di fronte all'emergenza e alla tempesta sono costretti a dare di più, e credo che sia giusto che a dare di più sia chi ha di più. È un tema di equità, un tema di democrazia e così via. Però credo anche che prima di farlo le persone vogliono vedere uno Stato efficiente che arretra su quello che deve fare, non su le tante cose che potrebbe o non potrebbe fare. Vogliono vedere che le tasse le pagano tutti, non soltanto quelli che hanno un reddito facilmente accertabile. Quando ci sono queste certezze, allora, no? Se la situazione è davvero critica, si può pensare di pagare anche più tasse. E da questo punto di vista la manovra, gli ultimi ritocchi un pochettino di più in questa direzione vanno. È fondamentale che si confermino, ripeto, il saldo complessivo e i tempi certi di intervento sui costi della politica, così come, riprendendo quello che diceva prima Enrico Letta, credo che sia importantissimo, usciti non dico dalla tempesta, perché credo che ci vorrà parecchio tempo, forse ci abitueremo alla tempesta, quindi non so mai se ne usciremo nel senso preciso della parola, ma credo che sarebbe importante, una appena uscita dall'occhio del ciclone, mantenere quello spirito, se vogliamo, anche di coesione che a un certo punto si è ritrovato, forse anche su spinta del Presidente della Repubblica, nel lavorare insieme sulle cose importanti che ci portano fuori definitivamente dalla tempesta, cioè le riforme e gli investimenti sulla crescita, che sono un elemento essenziale, perché così come per le aziende, se non c'è crescita è davvero difficile che ci possa essere serenità in un paese. Ecco, però su questo non vedono, almeno questo è il mio giudizio, alcun cambiamento nella posizione del governo. Quando Confindustria ha tentato di argomentare l'opportunità di una correzione dell'aliquota IVA, anche solo di un punto, ma di tutte e tre, dicendo una parte del saldo strutturale che si garantisce la possiamo destinare da subito, per esempio al sostegno della crescita per diminuire i contributi all'assunzione dei giovani, argomenti di questo tipo, avanzati da Confindustria, ma avanzati anche dai sindacati, avanzati dalle opposizioni, eccetera, rimbalzano regolarmente. Cioè è come se l'opportunità, la necessità di contribuire alla crescita del denominatore su cui poi si fa il calcolo del debito pubblico, la linea resta quella, non si fa per decreto, per così dire. Peccato che però per decreto si mettono tanti disincentivi, no, alla crescita, eccetera. Cioè, adesso io lo ricordo, punto interrogativo su come finisce la Robin Tax in Parlamento, perché anche lì, l'abbiamo già detto ai nostri ascoltatori, non è detto che dall'energia, prima era tutta energia, poi hanno tirato fuori il petrolio, poi ci hanno messo anche le telecomunicazioni, poi hanno detto che sì che no, all'ultimo secondo magari ritorna per tutti la Robin Tax, quindi intanto meno contributi per i giovani? No, con risorse strutturali, eccetera. Però intanto mettere le mani nelle tasche delle imprese, sì. Io ho due commenti su questo. Allora, il primo sul tema giovani. Io credo che il grosso dramma sia affrontare queste discussioni molto giuste, molto corrette, con la spada di Damocle dell'urgenza. Io credo che purtroppo quando uno si trova in mezzo al problema, nell'occhio del ciclone, non può essere troppo sofisticato, no? Prima si commentava sulla proposta che è stata fatta dalla Lega, che incrociava patrimoni con tasse pagate e così via. Idealmente è anche un qualche cosa che ha una sua attrattività, poi il problema è farlo accadere, e non è un qualche cosa che si costruisce in un pomeriggio, in una serata, in una nottata. E quindi anche il punto che si faceva adesso della possibilità di reinvestire sui giovani, reinvestire sullo sviluppo, è tutto giusto, ma non sono interventi che sono possibili overnight, spot, come dicono gli inglesi. Venendo invece al tema che ovviamente mi tocca più da vicino dell'ipotizzata estensione della Robin Tax anche alla telecomunicazione, io la definirei tra le pazzie di agosto, nel senso che la situazione del nostro settore è completamente diversa da quella di altri. Nostro è un settore nel quale i prezzi scendono il 10-15% all'anno, e purtroppo il settore si sta contraendo del 3-4% all'anno, ma soprattutto è un settore che è già chiamato a pagare una tassa in queste stesse ore, perché in queste stesse ore sta partendo l'asta per le frequenze, dalle quali si aspetta più di 3 miliardi di contributo alle casse dello Stato. Quindi ci sono 3 miliardi da pagare adesso, a fronte di frequenze che saranno disponibili forse tra 2 anni, e dire che era in un qualche modo la tassa perfetta è anche un po' irresponsabile parlare di ulteriori tasse nel momento in cui ci accingiamo a pagarne una che dipende dalla dinamica di un'asta. Ma senza svelare particolari dell'asta legati da giusto riservo, ma voi la bustina per la gara, non che un capite male, che voi che se ne ascolta, l'avete mandata e l'avete consegnata per la parte vostra? Noi la bustina per la gara l'abbiamo consegnata ieri verso le 10, come previsto dal regolamento. Oggi a mezzogiorno verranno aperte le buste di tutti, e da lì partirà un'asta, perché il processo che sarà abbastanza lungo, che non potrà non tenere conto del contesto che abbiamo intorno. Si aspetta un andamento dell'asta dal quale lo Stato avrà tutta la pingue soddisfazione che si attende, oppure no? Cioè rilanci? Ma allora, le aste hanno due livelli, se vogliamo. Hanno un livello, se vogliamo, dei grandi numeri. Io credo che sui grandi numeri, a meno che non ci siano gravi sorprese, o a meno che non ci siano pazzie tipo quella di sorprese sul fronte finanziario, sì, come quella Robin Tax della quale si parlava prima, credo che potrà andare nella direzione che ci si attende, anche perché sono stati definiti dei minimi d'asta, sì, abbastanza elevati, anche più elevati rispetto agli altri paesi europei. Detto questo, dopo che la dinamica dell'asta è molto complessa su un secondo livello, e quindi non è da escludere che possa durare parecchio, perché ci sono tantissimi tecnicismi, sì, e qui non bisogna mai dimenticarsi che sono all'asta sostanzialmente 5 tipologie di beni diversi, quelle importanti sono 5, e per ciascuna di queste 5 tipologie ci sono uno o più lotti disponibili, quindi con 4 aziende che offrono, diciamo, che le possibili combinazioni che portano l'asta a continuare sono molto molto numerose, e quindi possono portare un'asta che dura diverse settimane. Diverse settimane, appunto. Allora, mi dicono pubblicità, io invece mando un ascoltatore, guardate un po'. Allora, Luigi da Milano c'è? Sì, buongiorno dottor Giannino. Luigi, come la pensa di queste novità che ci ha portato il 29 agosto da parte del governo? È una considerazione amara, perché io sono tra quelli che hanno riscattato la mia laurea pagando quasi 50.000 euro. Quindi desidero presentare una mia amara considerazione su questo fatto. I capitali scutati non si possono toccare, perché si tradirebbe un accordo che è stato fatto. Certo, c'è l'accordo esplicito nella legge. Anche se, non dimentichiamolo, è stato fatto con evasori e ladri. Però si possono tranquillamente defraudare dei loro soldi quelli che con un altro accordo hanno riscattato la laurea, come dicevo prima, nel mio caso 50.000 euro, scippati senza più ottenere nulla in cambio. Ritengo questa una cosa molto molto triste. Luigi, io naturalmente la rassicuro sul fatto che non è scippato, perché ripeto, qua il riscatto ai fini del trasferimento del montante nel rendimento nessuno glieli tocca. Il problema è che ovviamente nel patto, cioè nel calcolo degli anni per maturare requisiti, effettivamente nel corso di una notte lei dovrà lavorare un bel po' di anni in più. Ma che ne pensa Ricoletta di questi tipi di interventi? Bisogna farli talvolta quando è necessario. La verità, diciamo, questa manovra è una manovra che con quest'ultimo passaggio ha un disegno, diciamo, qual è la constituency che tocca la manovra? Quali sono gli italiani che vengono toccati? Vengono toccati gli italiani che sono dipendenti pubblici. Ricordiamoci che la cosa più pesante è il TFR spostato di due anni, che è una cosa, secondo me, molto grave alla fine, molto molto grave. Gli enti locali, e adesso si aggiungono le cooperative bianche, rosse. Oggi c'è un'intervista del presidente di Confcooperative, Luigi Marino, democristiano doc, che ovviamente se la prende col governo, perché dice qui è demagogia pura. Lui stesso aveva proposto, secondo me, una cosa intelligente, dice: estendiamo a tutte le imprese il meccanismo del sistema cooperativo, che è quello per il quale hai un vantaggio fiscale, ma perché gli utili sei costretto al 90% a reinvestirli dentro l'azienda. Se una cosa di questo genere la estendessimo a tutti, credo che sarebbe utile, perché alla fine questo vorrebbe dire, è la logica della vecchia Tremonti, certo, adesso detta in sintesi. Quindi questo tema è pesante, nel senso che alla fine il governo fa una scelta politico-elettorale e colpisce quelle tre constituency, enti locali, appunto dipendenti pubblici, cooperative, che considera le meno vicine a sé, alla propria area di riferimento, e questo alla fine non c'entra nulla con i temi crescita, complessità del paese, equità e quant'altro. Seconda considerazione: continuiamo sulle logiche alla governo Leone. Questa manovra è già una manovra carica di piccole furbizie, i giochi, già si è fatta la benzina per i beni culturali, già, e adesso l'ultima cosa, in una notte scompaiono i 4 anni di laurea, scompare il militare, tutte operazioni di lungo periodo che, adesso la dico in sintesi, incoraggiano l'evasione culturale, l'evasione fiscale culturale. Certo, cioè certo. La gente dice giustamente, c'è uno Stato che con il quale non si possono fare parte. Non si possono fare parte. Perché alla fine lo Stato nell'arco di una notte mi fotte, adesso detto se, e non e quindi ci mette nulla. E quindi se ho la facoltà di fronte a uno quindi, di cui se, non ho titolo per fidarmi, devo diffidare, anch'io tenterò se e posso. E quindi appena posso fotto io lo Stato. Allora questa qui è proprio un problema di mentalità. Sì. Allora questa mentalità, secondo me, è un tema sul quale dobbiamo farci una riflessione complessiva, ed è un tema che riguarda tutti. Io penso che all'approccio a questa manovra, qui a Vedrò l'abbiamo detto in tutte le salse, rispetto ovviamente non alla manovra ma ai temi complessivi del paese, le parole che il capo dello Stato ha detto 8 giorni fa, 9 giorni fa a Rimini, linguaggio della verità, è venuto il momento di parlare del linguaggio della verità, e c'è bisogno quindi che ognuno dica la sua. Questo lo dico perché con Oscar Giannino, con la sua trasmissione, le cose che Oscar ha sempre detto nel tempo, tante volte Oscar ha criticato quello che abbiamo fatto quando stavamo al governo, eccetera. E a me piace la trasmissione di Oscar perché c'è bisogno nel nostro paese di libertà intellettuale, cioè c'è bisogno di che ognuno dica come la pensi, perché poi la gente si fa un'idea. Chiaro. A partire dalla libertà intellettuale di teste che si mettono a ragionare e poi dicono la loro. Penso che l'Italia abbia bisogno di questo, perché se siamo ancora al clima di gli aedi di una parte politica dicono adesso abbiamo risolto tutto, quelli che stanno dall'altra parte dicono si stracciano le vesti, qui bisogna andare al cuore delle questioni, affrontarle. Io ho citato prima i due temi, debito e crescita, la manovra non li tocca né l'uno né l'altro, penso che concentrarsi solo sul deficit sia insufficiente. Aggiungo anche, oggi siamo alla fine del mese di agosto, entriamo a settembre. Perché in queste due settimane c'è stata relativa calma sui mercati? Per alcuni motivi. Il primo motivo è che ad agosto comunque la liquidità è sempre più bassa. Il secondo motivo è che il Tesoro italiano, e non solo quello italiano, ha spostato alcune aste saggiamente in gran silenzio a settembre-ottobre, le aste che erano a metà, le aste dei titoli del debito pubblico che erano a metà mese. Terzo, che in un mercato di liquidità così ridotta l'intervento della Banca Centrale Europea a sostegno dei titoli spagnoli e italiani a seguito della lettera, degli impegni presi, del decreto legge, eccetera, è stato un intervento che nell'entità in cui è stato fatto ha comunque calmato i mercati. Ora, se a settembre-ottobre si ricomincia con la sarabanda politica che sta dietro la filosofia di questa vicenda, non c'è un intervento, non c'è una filosofia di intervento sul debito, quindi si dà per scontato che l'Italia vivrà col debito al 120% per i prossimi decenni. Questo è il messaggio che esce in queste ore, e si dà per scontato che l'Italia non crescerà, nel senso che non c'è una filosofia sulla crescita, quindi si dà per scontato che si continua allo 0,7-0,8, che è la cifra di oggi, che è la cifra di oggi. Io penso che settembre-ottobre sono mesi che saranno molto complessi, molto complicati, soprattutto perché poi a livello europeo la situazione è una situazione in cui non si vedono soluzioni, le leadership non emergono, non c'è il salto verso quelle soluzioni che sono necessarie, quindi per una volta la dimensione europea non ci aiuta, ci porta giù se bisogna prevedere le nostre cose. Che, per così dire, è una, non dico un aggravante, ma è un segno che resterà negativo, e quindi il ballo sull'Italia e su tutti i paesi euro deboli riprenderà. Mi sembra un'analisi molto fondata. Ora andiamo in pubblicità, poi ricominciamo con gli ascoltatori. Andrea dalla provincia di Brescia e Rosa dalla provincia di Milano, si tengano pronti, pubblicità. 9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci tornati qua in studio dalla centrale Fiat Dro in Trentino per la kermesse Vedrò, che da qualche anno anima il fine estate, di solito si sovrappone qualche giorno dopo il meeting di Rimini, che è l'altro punto di riferimento del dibattito politico estivo. Quest'anno è stato un meeting di Rimini cui ha dominato Montezemolo, Marchionne, il Can, insomma molto filo Fiat. L'intervento di Tremonti sabato, che ha concluso il meeting, è stato significativamente diverso nell'atmosfera da quello trionfale di un anno fa. Ripeto, i toni che colpiscono molti di voi e sono molto più duri, molto più aspri nei miei giudizi in questi ultimi mesi nei confronti dell'operato del governo di centrodestra si devono al fatto che io credo che la misura sia colma. La misura sia colma significa che c'è una volta la possibilità, di fronte a una grande crisi, di risolvere a one shot, c'è una volta la possibilità di approfittare in 72 ore della convergenza nazionale che il Presidente della Repubblica aveva messo in moto. Qualunque cosa voi pensiate del Presidente della Repubblica, io penso che abbia svolto al meglio il grande compito di interpretare l'emergenza dei tempi e dei richiami per scritto che la BCE ci aveva rivolto. Quell'occasione, la mia opinione, che ormai lo possiamo dire, dopo la manovra di luglio e la manovra bis di agosto, la loro riscrittura costante nel tempo, è persa, perché quello che è evidente ai mercati, quello che è evidente all'Europa, nel quadro che richiamava Enrico Letta alla fine, è che la chiarezza di visione su una ristrutturazione seria del perimetro pubblico nel nostro paese, capace nel conto economico di determinare strutturalmente e credibilmente nel tempo un equilibrio che porti all'azzeramento del deficit, ma fatto con molta meno spesa pubblica, quindi meno pressione fiscale, per liberare energie che sono necessarie ad aumentare il tasso di crescita del paese, e così contribuendo anche a risolvere meglio il problema del debito pubblico, insieme fine a massicce dismissioni di patrimonio pubblico. Ecco, tutto questo i mercati non lo hanno visto, e oramai la mia opinione è che dobbiamo ritenere che non saranno più indotti a credere che questo governo ne sia capace, che ce l'abbia nella sua cartucciera la possibilità di sparare questo colpo, perché per chi di voi magari non ama la caccia non sarà una buona metafora, ma per chi è rimasto di cacciatore hai poche frazioni di secondo per centrare il bersaglio, e dopodiché non sarà con il secondo o terzo colpo che hai più possibilità di prenderlo se sbagli il primo, e loro l'hanno sbagliato. Molti di voi dicono, ma come Gianino dovresti dire, hanno levato il contributo di solidarietà, hanno ragionato, sì certo, il problema però è che ce l'hanno messo, ce l'hanno tenuto per settimane, vi hanno detto che era intoccabile. A me un ministro della Repubblica mi ha anche chiamato dicendo che era un segno necessario, perché a criticarlo come facevo io si era diventati ricchi indifferenti, mi è venuto da ridere pensando ai suoi redditi, ma questo era il giudizio. Sentiamo Andrea dalla provincia di Brescia come la pensa. Andrea, che dice? Sì, buongiorno. Buongiorno. Sono un amministratore di un comune piccolo della Bassa Bresciana. Come si chiama il comune? Quinzano d'Oglio. Ok, e che pensa da amministratore locale dei 2 miliardi in meno, ma del fatto che poi restano più tagli di quanto i comuni, scendendo in piazza, non abbiano protestato? No, non abbiamo protestato a sufficienza. Allora, il mio comune, seppur di 6.500 abitanti, ha un avanzo di 1.013.000 euro. E ha sempre avuto avanzi positivi, quest'anno è particolarmente positivo, non diciamo che siamo stati bravi, diciamo che ci è andata bene e siamo stati oculati. E a patto di stabilità come state? Potete spenderli o no? Allora, no, non possiamo spenderli, perché nel momento in cui li spendiamo, lo Stato con la legge 78, il decreto legislativo 78 trasformato poi in legge da Tremonti nel luglio del 2010, ci toglie tanto quanto spendiamo di avanzo. Già ci tolgono, perché ci tolgono per la terza volta con questi 2 miliardi in meno. Io credo che nessuno di coloro che stanno scegliendo la nuova strada economica di questo paese si renda conto cosa significa avere a che fare con la gente, con i bisogni della gente, soprattutto adesso. Non ci chiedano per cortesia, per l'ennesima volta, di tagliare la cultura, perché un paese come il mio nella cultura ormai ci mette soltanto 10.000 euro, quindi non è più possibile tagliare nulla di cultura. Dovremo tagliare i 100.000 euro che ogni anno ci mettiamo di integrazione alle rette della scuola materna, oppure di integrazione a coloro Andrea, ma Calderoli, che sono nelle ma Calderoli non aveva annunciato che per i comuni virtuosi c'era stato lo sblocco ed era possibile? No. Nulla di tutto questo, non abbiamo alcuna comunicazione in merito. Noi se spendiamo un euro dell'avanzo, ci viene tolto chiaro, un Andrea, euro. Ci tenevo, ho fatto la domanda solo perché fosse chiaro a chi ci ascolta che il ministro annuncia e poi le cose non le fanno. Bene. Lo so, noi avremmo potuto dare una grossa boccata d'ossigeno alle imprese del nord, del sud, non mi interessa, guardi, io sono federalista, ma questo non è federalismo, questo è massimo del centralismo. Poi un'ultima cosa e termino, volevano magari un contributo di solidarietà proveniente dai comuni e dagli enti locali, saremmo stati ben felici per ogni opera pubblica realizzata per la nostra nazione, dare il 10% del valore di quell'opera pubblica in contributo di solidarietà, ma per abbassare il debito però, perché noi siamo tenuti ad abbassare le spese e il debito, abbassiamolo. Perfetto. Anche a livello centrale, grazie. Grazie Andrea. Matteo da Monza, prego Matteo. Salve, buongiorno. Buongiorno. Io stavo osservando con interesse, ma anche con un po' di stupore, perché ogni tanto mi sembra, come dire, di assistere a una sorta di farsa. Cioè, nel momento in cui la Banca Centrale Europea ha deciso che bisognava tirare un colpo di scure sul popolo italiano, io immagino che nessuno possa essere contento di questo. Quindi se questo colpo di scure bisognava tirarlo in testa a qualcuno, perché... E quindi è chiaro che ci sarebbe sempre stato qualcuno che, logicamente e comprensibilmente, non avrebbe gradito, diciamo, questo tipo di interventi. Allora il problema è un altro, secondo me. Cioè, invece che continuare a inneggiare ai mercati e a condizionare tutto il nostro assetto politico-sociale in funzione dei mercati... Li aboliamo, dice lei? No, perché non riflette un po' del rapporto tra mercati e bene comune? Sì. Per esempio, c'era il professor Irving Fisher dell'Università di Yale, che aveva proposto nel lontano 1934 che il denaro, per esempio, invece che nascere di proprietà delle banche e creare logicamente il debito a cui noi assistiamo, nascesse, per esempio, di proprietà dello Stato. Matteo, la interrompo. Matteo, la interrompo perché ho grande rispetto, naturalmente, si figuri, io so, più dei miei amici vogliono l'abolizione delle banche centrali, rompere in America, però guardi, non è la BCE che dà il colpo di scure. Cioè, la tesi secondo la quale ci sono i cattivi banchieri tecnocrati che aggirano i politici e si inventano il debito pubblico e il deficit italiano, se lei crede che sia fondata, beh, guardi, è come proprio vedere un film di quelli, B-movie, la notte. Questo debito pubblico c'è, è molto ingente, noi siamo i primi emittenti di debito pubblico dell'Europa, pur essendo come ammontare il debito pubblico tedesco maggiore del nostro, la nostra crescita è bassissima da 15 anni, e il problema è che c'è un problema europeo di sostenibilità dell'eurodebito, di fronte al quale nell'ultimo round di aiuti per la Grecia la BCE ha rafforzato le sue procedure, e quindi quando un paese grande come l'Italia vede l'accelerazione dei suoi spread di questo tipo, non sono i cattivi mercati, non sono gli avidi speculatori, non sono i banchieri come Draghi che aggirano il vincolo della sovranità popolare, sono i vigilanti del mercato che dicono: per il tuo peso, cara Italia, a questo punto devi fare questo, questo e questo, perché se non lo fai contribuisci all'instabilità generale molto delicata e molto pericolosa di tutto l'euro, di tutto l'euroarea. Questa è la mia opinione, quindi i benefici lo leggeremo, ma a maggior titolo saremo interessati a leggerlo quando daremo una correzione al debito pubblico e accelereremo la crescita italiana. Mia modesta opinione, e adesso abbiamo l'informazione sulla circolazione stradale. Qua mi picchiano, sono, mamma mia come sono cattivi. 9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci tornati in studio, finalmente un'ascoltatrice. Io sono circondato solo da uomini qui come sempre. Ma perché? Non, secondo me sono le signore che fintano le telefonate, che non mi vogliono far parlare con le signore in ascolto. Perché io ricevo poi tante mail di signore che non riescono a passare. Lo so, bisogna fare un'istruttoria su questo. Rosa, dalla provincia di Milano, lei che pensa di questa nuova manovra Mister Quater Quinquies? Io comunque lei non mi è simpatico. Quello di quello che, di cui parla lei non condivido assolutamente niente, neanche della Confindustria che finora ha utilizzato denaro pubblico e a scapito denaro pubblico, denaro nostro, denaro ma che qua, poi ha utilizzato dove? Nei migliori dei modi. Però questo non c'entra niente con il discorso. Rosa, ferma, Rosa, ferma. Perché nessuno la sta invitando a un concorso di tiro, per cui no, deve sparare subito. No, per carità, io sono una persona semplice, sono una pensionata, pensione o leggermente sopra le miniche, 700 euro, la mia qualità di vita è diminuita, vedo la signora Marciagalla che viene con le unghie laccate, belle, con un gioiello che costa una casa e tutto il resto. E allora? Non sono fatti suoi, perché i soldi sono suoi e ne fa quello che vuole, punto e basta. Però c'è anche un decoro rispetto a chi non può, ha un tenore di vita basso. Non è questo Rosa, il punto. Rosa, quello non mi faccia... Mi Rosa, lei non può parlare perché io la interrompo. Mi scusi, si dialoga? No, si dialoga perché io a questo punto devo farla notare. Però certe cose No, perché lei non può dire che la signora Marciagalla con le unghie laccate è un insulto alla sua dignità. Perdoni. No, la sua dignità, ah, è però l'ha appena detto. Allora, le faccio notare. No, non è un insulto alla sua povertà, Rosa. Adesso la interrompo su questo, però le ridò la parola. Quindi, prego, Rosa. Allora, quello che io dico, che vorrei dire, è che tutto ciò, voi avete lauree, professor di qui, professor, quello di cui io ho capito, a parte che c'è un patrimonio immobiliare anche ecclesiastico che non viene neanche citato, un patrimonio immobiliare che si può, da cui si potrebbe prelevare tranquillamente, che è alla luce del sole. Formigoni parla di metti i ticket sanitari, però non togli i finanziamenti alla scuola privata e già mi fa girare le scatole. Dopodiché, io le assicuro, dalla mia ignoranza, che fra 3-4 mesi ci sarà una nuova manovra, perché ciò che è stato fatto non è assolutamente niente rispetto a quello che si deve fare, tagliare i costi della gente, appunto delle regioni, delle province che non servono, tagliare i costi effettivi delle cose, non tutto il resto, un bla bla bla di qui. Rosa, certo, però io le faccio notare, tagliano solamente a noi, sulla nostra pelle. Rosa, le faccio notare, senza troppo scaldarsi, Rosa, che la sua conclusione, che tra qualche settimana o qualche mese ci risaremo e ce ne saranno altri, è esattamente quello che stiamo tentando di spiegare all'inizio della trasmissione. Poi nel merito lei dice: leviamo il patrimonio alla Chiesa, affondiamo le mani di qua. Queste sono opinioni legittime. Nell'interpretazione generale, Rosa, senza scaldarsi troppo, la pensiamo più o meno tutti allo stesso modo. Vabbè, chiudiamo con Massimiliano da Roma e poi torniamo con l'ultimo giro d'opinioni. Massimiliano da Roma, lei che ne pensa? Ma diciamo, io volevo parlare un po' di un argomento un po' più di analisi strutturale, no, di questa situazione. Cioè, volevo dire che la cosa che io vedo, no, magari sono anche un po' ignorante in materia, è che non c'è una pianificazione a lungo termine e quindi a catena succedono tutte queste cose. Cioè, mi spiego meglio. se ci fosse un piano, no, di tasse, di tassazione, ma anche di agevolazioni, che dura, che ne so, 5, 6, 10 anni, allora le aziende, secondo me, investirebbero di più, ma anche i privati. Per esempio, ma è chiarissimo, senza faccia esempi, è chiaro che una pianificazione pluriennale credibile, che non passa attraverso il balletto ogni mese delle norme, è chiaro che ti dà un orizzonte di maggior certezza su quanto tu destinerai agli investimenti, con quale ritorno, eccetera. In generale è ovvio che per un'impresa, ma anche per un contribuente, quando l'onorevole Letta diceva prima, è chiaro che l'idea degli scippi notturni con le norme che cambiano immediatamente trasferisce al contribuente, quindi anche alle persone fisiche, non solo alle imprese, questa idea per cui la credibilità e l'affidabilità di un patto reciproco è fondata su un terreno molto debole. E quindi questo è ovvio, e quindi la pensiamo anche come lei. Grazie Massignano. Pietro da Como. Pietro da Como, lei come la pensa? Sì, Giannino, buongiorno. Buongiorno. Niente, io sono arrabbiatissimo e dir poco. Io dico che dal 2008, pur essendoci stata questa crisi che è tuttora in atto, lo Stato ha avuto maggiori introiti. Non solo, ha avuto anche ogni anno un record su record dall'evasione fiscale, e sì, ci troviamo ancora con un debito pubblico ancora molto più alto. No, io dico, è inutile andare a prendere l'evasione fiscale, quello si farà in una seconda parte. Andiamo prima a battere il debito pubblico, e se no buttiamo via ancora nel pozzo soldi inutilmente. Grazie Pietro, stia attento, perché a dire questo il messaggio che si dà però è che la lotta all'evasione fiscale non è naturalmente una priorità, e questo non solo impopolare ma è anche ingiusto. Poi certo, per gli ammontari e per quello che possono dare diverse ammontari, diverse voci, conto economico e patrimoniale, sono misure strutturali da prendere, ma naturalmente dirla come la dice lei espone a un rischio molto serio. Bertoluzzo, rispetto ai grandi paesi in cui siete, se dovesse dare un giudizio della diversa efficacia delle reazioni, per paesi che hanno avuto problemi diversi, c'è chi ha avuto un grande problema bancario, c'è chi ha avuto problemi di bolle immobiliari, però insomma quello che si vede è che ci sono paesi che hanno fatto scelte strategiche, ci sono paesi come il Regno Unito, la Germania, la Spagna, che per esempio hanno deciso di puntare molto sull'aumento delle aliquote IVA. L'aumento delle aliquote IVA, lo ricordo a chi è a casa, molto temuto, molto odiato nel nostro paese, ma è uno dei pochi strumenti, quando non si ha in mano il tasso di interesse e quindi il cambio della moneta, per svalutare quando si è molto indebitati, perché ha effetti diversi sull'import e sull'export. Però insomma i paesi hanno reagito in maniera diversa, e l'impressione però che i tassi di crescita restino significativamente diversi dai nostri. Se lei dovesse dire un paio di idee dal punto di vista delle imprese del settore in cui lei opera e agisce, che aiuterebbero molto, che cosa potrebbero essere? Ma io credo che sia molto difficile un confronto tra paesi, perché le situazioni sono veramente molto molto molto diverse, e poi purtroppo il Sud Europa è in un percorso di crescita purtroppo completamente diverso da quello del Nord Europa. Sicuramente noi come italiani non pregiamo nella capacità di pianificare sul lungo periodo rispetto ad alcuni di questi paesi, e abbiamo un po' questa tendenza a intervenire sull'emergenza. Credo che allo stesso tempo noi abbiamo avuto la capacità di tenere almeno fino a questo momento un buon livello di pace sociale rispetto a paesi come la Francia piuttosto che l'Inghilterra. Non ci dimentichiamo quello che succedeva a Londra non più tardi di qualche settimana fa, e credo che questo sia un valore per un paese enorme, che è fondamentale non perdere in queste ore di battaglia, se vogliamo, tra segmenti della società o del mondo della produzione, tra chi vince e chi perde. Fare vincitori e perdenti sul mondo finanziario sarebbe qualcosa che fa male a un paese. Detto questo, credo che sia importantissimo uscire dall'emergenza rispettando, ripeto, il saldo, perché questo è un tema di credibilità di paese, non di politici o di governi o di Parlamento, e iniziare a lavorare seriamente sulle riforme di lungo periodo, andando a promuovere quegli investimenti che creano effetto a valanga positivo. Io lavoro in un settore nel quale questa possibilità c'è, ad esempio, soprattutto nel mondo della larga banda, ma credo che ci sia anche spazio per liberare investimenti privati in altri settori. Non stiamo parlando di soldi pubblici, stiamo parlando di liberare investimenti privati. I soldi privati le aziende li hanno, bisogna fare in modo che li possano investire in modo efficace e produttivo. Onorevole Letta, ma per concludere, l'atmosfera di convergenza, quella evocata dal Capo dello Stato, lei l'ha citato prima, però ci sono i presupposti per che il governo possa chiedervela? Mi sembra onestamente molto difficile, anche per perché è plasticamente sotto gli occhi di tutti, c'è stata una trattativa interna alla maggioranza, oggi hanno annunciato, con l'opposizione nessuno ha parlato, nessuno ha voluto parlare. Noi avevamo fatto tante proposte, ma io ne cito tre al volo, che secondo me sono solo proposte di buon senso. Si dice lotta all'evasione fiscale, cosa c'è di meglio che tracciabilità? Abbassare la soglia di pagamenti, noi avevamo detto invece di 2005, come ha proposto il governo, 500 euro. Le parti sociali sono tutte d'accordo. 500 euro la soglia oltre la quale scatta i criteri di tracciabilità. Secondo, sul fisco si è detto bisogna creare il contrasto di interessi tra chi svolge una certa prestazione e chi la riceve, in modo tale che chi la riceve sia spinto a chiedere la fattura. Abbiamo proposto che su tutto ciò che è manutenzione della casa si faccia questo. E l'altro, le poltrone, 50.000 poltrone delle società partecipate degli enti locali, che sono consigli di amministrazione, presidenza, vicepresidente, amministratore delegato, che hanno retribuzioni molto elevate, sono tante. In quei casi la società venga governata da un amministratore unico. Si tolgano tutte queste poltrone che sono tutte per ex politici. Poi l'IVA sa benissimo come me che l'IVA non l'hanno messa perché se l'IVA la tengono per la clausola di salvaguardia finale, perché alla fine questa manovra si regge su 20 miliardi che sono la famosa clausola di salvaguardia finale di cui nessuno parla. Bene, grazie Bortoluzzo, grazie Enrico Letta. I flash da Banca d'Italia, una nota che dice le modifiche alla manovra non aumentino il peso del fisco. Anche la Banca d'Italia fa notare al governo che sanno fare solo una cosa. Appuntamento a domani e intanto grazie qua a chi ci ha ospitato a Vedrò, Linea Generale Radio. Radio 24, la passione si sente.